la prostata, per curarla bisogna trombare. Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ennesimo show in Parlamento del nostro leghista preferito Gianluca Buonanno, il tuo amico Good as All, caro Parenzo. L'ho visto, è terribile. Ma quale terribile? Show continuo e show continuo sia. Viva Buonanno! Ma tu te immagini una Camera dei Deputati, un Senato formato da 300 persone col Senato eliminato, 300-400 persone, tutti professori universitari? Ma ci vuole gente di popolo, gente che dice le parolacce, gente che si incazza, gente che alza i cartelli e dice vattene, vattene, che dice vergogna. Ma non è che la gente, tu stai offendendo il popolo, non è che la gente del popolo si comporta tutta come Buonanno, eh? Oggi a un certo punto ha alzato un cartello PD amici della mafia. Devo dire che è un po' eccessivo, eh? PD amici della mafia. Ecco. Tu che indaghi sempre sul conto della gente e non ti fermi alle apparenze, ma analizzi, scavi e poi sputi le sentenze. Allora, la giustizia in Italia va male. Voi con questo provvedimento ancora una volta fate gli sconti come al supermercato. Ogni 12 mesi di condanna, 7 in galera e 5 abbonati. Come un 3x2 al supermercato. Mafiosi che stanno uscendo, perché escono 200 detenuti ogni settimana, e che è retroattivo dal 2010 questo provvedimento assurdo. E i complici che sono? Gli amici della mafia sono qua in Parlamento, il Partito Democratico, perché facendo questo provvedimento... Si rivolga con rispetto ai suoi colleghi, per favore. Colleghi, facendo questo colleghi. Provvedimento nella pratica... Mi scusi, signor Presidente, sto parlando... Poi a un certo punto viene espulso, insomma viene mandato via... E rientra perché chiede scusa. Sentiamo Madama Boldrini. La Presidenza, alla luce dell'impegno assunto dal deputato Buonanno e ferma restando la piena correttezza della decisione assunta dalla Presidenza di turno questa mattina, ritiene di riammetterlo in via eccezionale e senza che ciò costituisca precedente ai nostri lavori dell'Assemblea. Però una volta che fai la caciara non è che chiedi scusa Buonanno, eh? Vabbè. È come quei bambini, io l'ho anche fotografato, poi la pubblicherò sul sito della Zanzara oggi pomeriggio, quando è uscito dall'aula con le manette ridendo. Beh, con le manette, sì, certo, con le manette. Mi ha guardato, ma ognuno detto, posso farti una foto, lui tutto contento, sì, come sei. Ma ognuno fa si sporcano con la marmellata. Ma ognuno no? Fa opposizione come vuole, di che cosa ci stupiamo? Non è la prima volta che Buonanno porta le manette, altri hanno portato i cappi, altri ancora hanno portato i cartelli, ma è così. Sempre scuola sua, sempre roba sua, Oh, ma è possibile che alla fine sono tutti gay? Ha parlato qualche istante fa lo sceneggiatore di Seymour Hoffman, no? L'attore morto New York, il quale dice, suo sceneggiatore nonché amico, si chiama David Barkatz, ero il suo amante da tempo, Philip era gay. Intanto abbiamo un grande ospite. Casini viene martellato in queste ore, per esempio da Crozza. Ieri sera, martellato da Crozza. Beh, facile però, facile Crozza. Lo sai, te lo giuro, Gio, che io Casini non l'ho mai visto in piedi. Com'è? Alto? Basso? Com'è? Io l'ho sempre visto col culo su una poltrona. Dimmi come. Guarda, Giovanni. Santanchè, negli ultimi anni Casini ha fatto solo casini. Prima aveva detto che non contava niente il giorno prima, che tanto era un bluff. Questo se ne accorge. Però noi dobbiamo sottolineare alcune cose. Casini negli ultimi anni ha fatto solo casini. E ha fatto perdere il centrodestra in questo paese. Che, e questo dobbiamo dire. Perché Casini uguale casino. Non è che Casini uguale consenso. Noi. E che ti serve la nazione? Intanto scopriamo, ma per me non era una novità, che Sgarbi deve 250.000 euro a Equitalia. Mamma 250.000 euro a Equitalia, e dice che non vuole pagare le tasse allo Sgarbone. Sentiamo lo scatenato: devo 250.000 euro a Equitalia, ma non pago. Tessera, gli ho telefonato, devo chiudere questo punto. Io ho fatto il sovrintendente gratis per un anno e mezzo e non mi hanno dato lo stipendio. Ho fatto direttore della Biennale senza stipendio. Devo dare 250.000 euro a Equitalia. Non glieli do. Non li voglio dare a uno Stato che li butta per darli a parlamentari regionali, ladri di vario genere, gente che si prende. Non voglio. Però, caro Sgarbone, amico mio, non è che uno dice siccome lo Stato spreca i soldi ed è vero, io non pago 250.000 euro di Equitalia di cartelle esattoriali. Perché tu, amico mio, hai commesso degli errori perché sei Sgarbi, sei un grandissimo, te scordi di pagare tasse, ti scordi di pagare l'IVA, però, amico mio, non voglio pagare le tasse. Io sono arrivato al punto che, vergognandomi di questo Stato, non voglio pagare le tasse per essere complice di pale eoliche, fotovoltaico, rotatorie, palazzi, e ho rinunciato alla mia pensione per darla a un fondo per il restauro delle opere d'arte. Delle pensioni, tra l'altro, questa sera. Io non ho intenzione di fare più niente per questo Stato. Non voglio pagare le tasse. Beh, però è così, è comodo. Anch'io mi incazzo perché uno, due, tre e non pago le tasse. E decido di non pagare le tasse. Proprio più in stagione, perché ti servo da lezione. È con noi Rocco Buttiglione, buonasera. Buonasera. Come sta, carissimo? Me la cavo faticosamente, come tutti. Senta, è un martellamento, anche noi per carità abbiamo inferito, devo dire, nei giorni scorsi nei confronti di Casini, abbiamo fatto riascoltare tutti i momenti in cui Casini ha detto a Berlusconi bugiardo, mai più con te, eccetera, eccetera. Adesso, ubriaco addirittura, ovviamente non ubriaco dal punto di vista, come dire, letterale, populista, venditore di fumo, eccetera, eccetera. Anche lei non ci è andato leggero, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, nei confronti di Berlusconi, Buttiglione. Ora c'è questo... Qualche volta. C'è questo... Cos'è la cosa peggiore che ha detto Berlusconi negli ultimi anni? Cosa ha detto? Non ci faccia rintracciare le cose, non ci faccia perdere tempo. Non pensiamo. Cosa fu molto duro? Fu la vicenda della storia delle donne, perché rischiava di essere un cattivo esempio dato a tutti i giovani. Un ragazzino mi dice: amo le donne come Berlusconi. Mi spedisci no. Amare le donne è un'altra cosa. E star vicino loro tutta la vita, tirare sui figli assieme. È un'altra cosa. Ma perché volete tornare con lui adesso? Perché ormai lei ha detto ci costringe Renzi a tornare con Berlusconi. E c'entra Renzi? Renzi fa la legge elettorale insieme a Berlusconi. Prima di Renzi c'è un fatto. Renzi, abbiamo rotto con Berlusconi per una... che il paese avesse bisogno di un governo di responsabilità. Ancora in casa. Sì, se ci assistono le linee telefoniche, sì. Buttiglione, ci siamo? Non c'è. Si svegliano per me quando tutto sembra poesia. Non c'è. Le zanzare di casa. David, ci sei tu? Io ci sono. Non parlare, mi raccomando, resta lì così, appeso come un tordo. Tordo, prima era caduta la linea, e non per colpa mia, primo. Né per colpa dei nostri. Sentiamo Pomicino su Casini, dai, Casini grande tanghero. Casini ha fatto prima l'alleanza in Sicilia con il Partito Democratico vincendo le elezioni con Crocetta. Poi tre mesi dopo ha fatto l'alleanza con Monti andando alle elezioni in un bagno di sangue. Dopo quattro mesi ha rotto con Monti e dopo tre mesi ancora ritorna con Berlusconi. Se uno volesse scherzare direbbe del mio amico Pier Ferdinando che è il più grande tanghero. Ci siamo finalmente, Buttiglione? Pronto, mi sentite? Ma dove si trova? In quale antro della Camera o del Senato si trova? All'ingresso. All'ingresso. Bello, tutto grande. Qua sono. Qua è. Vabbè, senta, ma ci conferma che tornate con Berlusconi o no? No. Ma come no? Io non sono mai stato un servo di Berlusconi quando ero alleato con lui. Sì. E non conto di esserlo neanche in futuro se faremo nuovamente un'alleanza. Beh, come se? Casini l'ha dato per certo. Io non lo do per certo. Noi vogliamo ricostruire un centrodestra pulito. Vabbè. Sappiamo che pulito che vuol dire? Pulito vuol dire normale, come negli altri paesi europei, senza un grande conflitto di interessi e senza populismi. Ho capito, però Berlusconi si mette con tutti, pure con Storace, con la Lega, si vuole mettere con tutti. Ho capito, questo lo so. Questo non è una difficoltà da poco, dobbiamo affrontarla. Dobbiamo prima di tutto metterci assieme con quelli che ci sono vicini e che la pensano come noi, chi, per esempio Alfano. Poi dopo insieme parlare con Berlusconi. Cioè chi è che non volete voi? Chi è che non volete? La Lega? Da una posizione di forza, perché senza di noi Berlusconi perde. Ma ho capito, senza di voi Berlusconi perde, questo lo può dire chiunque, diciamo, no? Chiunque possa contare almeno un pezzettino quando si fa una coalizione. Non ma io voglio dire quindi una cosa. No, quindi anche voi, certo. Io voglio capire una cosa, ma scusi, per esempio, se ci fosse la Lega che adesso è anti-euro, si allea con l'estrema destra in Europa, eccetera, eccetera, voi andate con Berlusconi o no? Perché noi vogliamo fare i partiti con l'Europa. La Lega è contro l'euro, vuol dire l'Europa. Anche la Lega deve fare le sue scelte. Con una Lega così noi non ci potremmo stare. Con una Lega così però, no. Vedo però che Tosi adesso. Sì, oggi ha detto una cosa molto sensata, che non si può uscire dall'euro. Sì. Speriamo che maturino ancora. Senta, ma Toti è un nuovo democristiano? Cioè lo vede un po' democristiano Toti? Non lo conosco bene, non lo posso dire. Se per democristiano intende una persona di buon senso. No, una persona così, un moderato, uno che non spara cazzate. Uno che non spara cazzate. Allora non gliene ho sentite sparare molte, però. Ma la Santanchè dice che Casini è un blef. Lei ci si vede alleato della Santanchè? Io ho sempre una grande ammirazione per le vere donne. Però dovrebbe stare più attenta a quello che dice. Lei spara un sacco di cazzate, dice la Santanchè. È una di quelle che spara un sacco di cazzate. Se tiene la bocca chiusa è oggetto di ammirazione incondizionata. Quando la apre magari c'è qualche condizione. Quando la apre insomma c'è qualche problema. Scusi un attimo, ma una bella donna, vabbè, a lei piacciono le belle donne come a tutti naturalmente. Gli occhi stanno in fronte per vedere, certo. Ha detto San Tommaso d'Aquino, Sì, no, San Tommaso disse questo. Però scusi, con la Santanchè lei ci si vede alleato, buttiglione di nuovo insieme alla Santanchè? Mi dica la verità, non ci si vede troppo? Onestamente faccio un po' fatica. Fa un po' di fatica. Però tutto può cambiare. Anche la Santanchè fa il un po' di fatica. Il problema è quello che per me è fermo, è il Partito Popolare Europeo. Vabbè, d'accordo, però sa la gente, quindi, non è che... ma la gente, quindi le cose serie non sono il pettegolezzo. Ma Berlusconi, il Partito Popolare Europeo. Secondo lei Berlusconi si può candidare a parlamentare europeo? Dovrebbe candidarsi al Parlamento Europeo? No, credo che sarebbe meglio non farlo. È meglio che non si candidi, meglio che non tenti una strada per candidarsi. Ma invece senatore a vita ce lo vedrebbe? Chi? Senatore a vita, Berlusconi. Non mi pare che sia il momento. Non è il momento, non è il momento. Parenzo, sei sparito, sei sotterrato, sottoterra? Sto cercando, se lei sta tranquillo, la sento agitata. Ma la sento tranquillo, cioè quello non si sente al telefono, tu te cade la linea, meno tranquillo di così cosa deve essere? Cioè, è la radio questa qua, non è bubù. Grazie, capito, ma se voi non c'avete i telefoni che funzionano... Mica ho detto che è colpa sua, Buttiglione, per carità, mica ho detto che è colpa di Buttiglione. Cazziato pure Buttiglione. Ma non ho cazziato Buttiglione, per niente, figuriamoci. Da filosofo dicendo... La radio si fa quando ci sono i collegamenti, altrimenti non si può fare, punto. Però il professor Buttiglione ha ragione su questo, oltre alla questione tecnica della radio, va bene, volevo capire se però sarebbe un grande gesto di pacificazione nazionale quella di farlo senatore a vita Berlusconi. Guardi, mi sembra che in questo momento veramente non ci siano le condizioni. Ha appena subito una condanna, non voglio prendere posizione su questo perché è una questione che riguarda lui e la magistratura. Sì. Però non credo che siano molti esempi di persone che sono sotto una condanna penale e contemporaneamente vengono fatti senatori a vita. Ma secondo esempio c'è, ci sono esempi. Cioè chi? Però è qualcuno che non so, si ricorda Pertini, per esempio. Ah, Pertini. No, che non è stato fatto senatore a vita, però è stato fatto presidente della Repubblica, quindi dopo anche senatore a vita. La condanna allora fu fatta da dal fascismo totalitario. Sì. Questa giusta o sbagliata che sia stata fatta per una democrazia. Però scusate, ma secondo lei dunque non dovrebbe più fare politica? Uno condannato come Berlusconi dovrebbe continuare a fare politica, oppure è una vergogna che continui a fare politica? Io sono molto prudente nel usare le parole, perché veda, uno può pensare quello che vuole di Berlusconi, ma la gente che lo vota merita rispetto. Cioè se ne frega della condanna. Se la gente che lo vota, lui ha diritto di fare politica. Naturalmente finché lo vota, e non credo che possa essere candidato alle prossime elezioni. Scusi un attimo, le posso chiedere qualcosa su Putin, che viene attaccato adesso? Ma Letta ha fatto bene ad andare alla cerimonia delle Olimpiadi? Secondo me sì. Guardi, qui tocca una cosa su cui sono combattuto, perché mi sento profondamente solidale con la lotta del popolo ucraino per la libertà e per l'Europa. No, ma lasciamo perdere l'Ucraina, qui la questione non è l'Ucraina, è anche l'Ucraina, sì. Ho capito, ma ha fatto bene ad andare lì da Putin o no? D'altro canto, io capisco che l'Italia ha importanti rapporti con Putin, stiamo uscendo dalla crisi, è un momento in cui si sta facendo in quattro per attirare investimenti verso l'Italia, dicendo l'Italia sta facendo la crisi, vale la pena venire in Italia, investire in Italia, creare posti di lavoro in Italia. Quindi non mi sento di condannarlo, ma non mi sento neanche di applaudire. Ma secondo lei i gay sono perseguitati in Russia? Giuste le leggi, per esempio, sulla propaganda, che non bisogna fare propaganda per i minori, la propaganda omosessuale? Io sono stato tra quelli che hanno proposto in Italia una disposizione di legge per dare asilo politico a quelli che vengono perseguitati in altri paesi per cose che non sono reali. Ecco, ma secondo lei i gay vengono perseguitati in Russia quindi anche per i gay ai quali non vengono riconosciuti i diritti che riconosciamo noi in Italia. Senta una cosa, ma mi pare di capire che voi vi avvicinate a Berlusconi un po' turandovi il naso, o sbaglio? Questa è un'espressione di Montanelli che non mi è mai piaciuta. Ci avviciniamo a Berlusconi, esploriamo la possibilità dell'incontro con Casini praticamente Italia. L'ha dato per certo, abbiamo sbagliato, abbiamo provato a fare il centro, non ci siamo riusciti, qui la situazione è bipolare, momento, bisogna vedere se è possibile, perché alcune cose desiderabili non sono possibili, perché se sono possibili occorre che ci sia buona volontà da tutte e due le parti. Berlusconi ce l'ha la buona volontà, ha usato il giornale, ha attaccato Casini, Berlusconi ha detto io lo accolgo a braccia aperte, benvenuto. Berlusconi senza di noi non ha vinto, noi non siamo riusciti a fare il centro, ma lui non è riuscito a vincere. Comunque lo sai, parte dal riconoscimento reciproco del fatto che riconoscimento reciproco. Parenzo, sai che fu Buttiglione a insegnare politica a Berlusconi nel lontano, credo 93-94. Non pretendo tanto. Allora, vogliamo riascoltare Buonanno e le manette, il rimprovero della Boldrini, quando dice tolga queste manette, basta con questa storia. Noi della Lega vogliamo che i delinquenti mafiosi stiano in galera e la gente per bene stia tranquilla fuori casa. Allora le dico, signor Presidente, signor Ministro, le vede queste? Queste sono quelle per mettere. Tolga questa cosa, ma la smetta. Io gliele regalo. Tolga queste manette, intervengano i questori, togliete i cartelli, per favore. Che piano si avvicina, ti sembrerà una festa. Ma tolga queste cose, devo dire che la voce dà un po' fastidio, fastidioso. Scusa David, prima che io cominci veramente questa sera a dare di matto, prima che davvero cominci a dare di matto questa sera. No, do di matto questa sera, veramente do di matto. Avverto tutti che do di matto e sbrocco, sfascio tutto stasera, Non si sente niente, mandatemi il TG3, non si sente niente. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. La maggioranza al premier, necessaria una verifica di governo. Domani la direzione del PD, Renziani, nessuna staffetta a Palazzo Chigi. Napolitano, Letta e Monti non sono stati un mio capriccio. Basta con il rigore a tappe forzate sulle carceri. Mettiamoci in regola o pagheremo cifre enormi. L'ufficio di presidenza vota contro la costituzione del Senato parte civile nel processo contro Berlusconi. Tensione alla Camera sullo svuota carceri. Gli ambasciatori del Made in Italy rinunciano alla poltrona. Montezemolo vende a un gruppo americano il prestigioso marchio Frau. Abusi sui minori, l'ONU accusa il Vaticano, non ha adottato misure per prevenire le violenze, la replica ha sottovalutato il nostro impegno contro la pedofilia. Nel Veneto travolto dalle piogge, fra le case si gira in gommone, sono centinaia le famiglie evacuate e le aziende in sofferenza. È in condizioni disperate Chiara, la 19enne massacrata dal compagno di 35 anni, il padre della ragazza al TG3 l'ha ridotta così perché l'aveva persa. Giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria nel letto. Io vorrei tornare sulla vicenda Sgarbi, perché attenzione ragazzi, qui c'è uno, un nostro amico che magari chiameremo, che sostiene che ha un debito con il fisco di 250.000 euro, si faccia vivo anche il suo avvocato. Lo dice lui, non è che l'abbiamo detto noi, lo ha detto durante la trasmissione di Sottile, là, come si chiama? Linea Gialla, che è diventata un'altra cosa, tra l'altro. Signor Sgarbi che dice, io devo dare 250.000 euro, a me risultano di più, peraltro, a Equitalia, ma non glieli do, non voglio pagare le tasse perché lo Stato è ladro, perché uno, due, tre, tutto quello che potremmo dire noi, diciamo, ci arriva una multa, ci arriva una cartella dell'Equitalia, e potremmo dire, siccome lo Stato ruba, siccome la Sicilia c'ha il sacco... Ma ci aspettiamo. Befera, gli ho telefonato, devo chiudere questo punto. Io ho fatto il sovrintendente gratis per un anno e mezzo e non mi hanno dato lo stipendio. Ho fatto direttore della Biennale senza stipendio. Devo dare 250.000 euro a Equitalia. Non glieli do. Non li voglio dare a uno Stato che li butta per darli a parlamentari regionali, ladri di vario genere, gente che si prende... Non voglio. Che mondo è questo, ma anche... Io sono arrivato al punto che, vergognandomi di questo Stato, non voglio pagare le tasse per essere complice di pale eoliche, fotovoltaiche, rotatorie, palazzi, e ho rinunciato alla mia pensione per darla a un fondo per il restauro delle opere d'arte. Delle pensioni, tra l'altro, questa sera. Io non ho intenzione di fare più niente per questo Stato. Non voglio pagare le tasse. Sono contro le tasse buttate da gente chiarissimo, incapace. Chiarissimo. Ma come chiarissimo? Ma chiarissimo cosa? Ma non c'è nessuno. Non è un dibattito. Se tu devi pagare le tasse, le paga, Vai avanti tu, così ti guardo. Nei paesi comunisti si viveva bene. Poi c'è una stortura legislativa, ci vorrebbe un po' di comunismo. Io non voglio naturalmente fare l'elogio del comunismo, ma nei paesi comunisti si viveva bene perché? Perché era garantito a ognuno di avere ciò che bastava. Non si può non avere per ognuno almeno 1.000 euro al mese. Poi se la piglia con Zurlo del giornale. Se la piglia con Zurlo del giornale, eh. Come si fa a parlare con questo stronzo? Sentite, sentite. Dell'Armellini. Tu non sai che non ha nascosto niente. No, so che ha la residenza a Monte Carlo. Berlusconi ha la residenza a Monte Carlo? Ma lei non ha. I beni sono in Italia. Rispondi a questa domanda. Ma non ce l'ha neanche lei a Monte Carlo, sta in Italia. Forse mi sto raccontando una cosa. Se l'aveva. Allora, Vittorio Sgarbi, che l'ha conosce. Ma cazzo si fa parlare con questo stronzo? Ma che stronzo? Ma dai, puoi lasciarmi parlare? Il sì, giorno... Ma fai un discorso vabbè compiuto, però. Ma lo sto facendo come sei tu che rompi il cazzo per niente. Sì, buoni, ma buoni, allora, buoni, dai. Non parlo più. No. Mi scuso di essere venuto. No. Lui ha ragione, lui no, è come la Boccassini. Finisci, parlate uno alla volta. Il giorno che l'hanno inquisita, io sono stato a pranzo con lei. Stavano parlando dell'Armellini, quella che non ha pagato l'ICI o l'IMU su molti immobili. Parenzo alle prese con Antonio Razzi, oggi al Senato, alla Camera, non so, dov'eri? Alla Camera. Alla Camera. Come andiamo, caro? Ciao. Tutto bene. Razzi. Ti vedo a Matrix. Com'è Matrix? Matrix. Matrix. Sì. Matrix. Tutto bene, grazie. Le vogliamo bene. Altrettanto, anche io sento spesso la zanzara, ti penso sempre, guarda, caro Parenzo. Molte volte sento qualcuno che ti offende, ma io lo manderei all'altro paese. Ma perché, chi se ne frega? No, ma perché non capiscono l'umorismo. No, nulla. E allora quando c'è la zanzara, meno male che c'è, perché almeno dà un po' di sorriso agli italiani. E per la prima volta che l'ambasciatore Kim... Rossi Stewart? Kim? Kim Kaur, che è qui l'ambasciatore qui a Roma. Che è un democratico? È un democratico liberale. Cristiano. Democratico cristiano liberale, di forza liberale, sì. E diciamo che mi ha chiesto appunto di domandare un po' di giornalisti che per portarlo in ambasciata dove fa una conferenza stampa. E quando sarà questa conferenza stampa? Anche domani. Io sto solo aspettando i giornalisti che... Noi ci saremo. Se non ho capito male, ti porterà davanti all'ambasciatore della Nord Corea, David. Dentro il mio giardino ruggisce tutta la notte. È sparito. Pino d'Arieti. Pronto? Pronto? Sì, Pino, dimmi. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Stasera grande sorpresa, Buttiglione. Hanno riaperto le tombe. Ma dove avete contattato? A Caracalla? Comunque io volevo fare una piccola considerazione sull'affermazione di ieri sera del dottor Crepet. Ma io dico, se 750 euro sono il compenso che in un regime di spending review la RAI dà per un intervento a porta, no? Ma prima, ma quanto gli dava a questi? Ma non lo so, allora, ma ha detto 800, prima sarà stato di più, non lo so. Vabbè, però io vorrei questa cosa qui. Questo va lì a scaldare la sedia per un'oretta e mezza, no? Tra l'altro poi c'ha pure ste risposte. Ho capito, ma quando uno diventa un simbolo, quando uno si diventa un simbolo di una trasmissione, io mi aspetto che naturalmente sia pagato un po' di più, però chi se ne frega, va bene così, eh. Va bene, però allora c'è sta gente che è ugualmente professionista, no? Diplomati che curano gli anziani con tutte... Ma che c'entra questo? No, dai! No, prendono 750 in un Vabbè. Mese e questo coglione con i soldi che paghiamo noi per il canone o dobbiamo mantenere noi, mandassero a lavorare questi qua, è ora che si parassiti vanno a lavorare. Comunque... Va bene, ho capito. Grazie a tutti. Crepè ieri. Sentiamo Crepè, sui compensi, Vespa, eccetera. Chiude la porta a porta, io ci vado 3-4 volte l'anno. Le assicuro che per quello che mi dà, ci vado anche in motorino per non far pagare la RAI. Pensi un po'. Quanto la pagano a porta a porta? Poco? 7,50 lorde. 7,50 lorde? Lorde? Sì, sì. Sì, anzi, ce l'hanno anche abbassato. Pure? Erano 800, sì, sì. Sa che alla RAI fanno cioè la spending review, no? Poi pagano qualcuno 4 milioni e poi però dei professionisti dicono lei ha anche pagato al massimo, così mi dicono, non lo so, io non è che vado a vedere se una starlet prende qualcosa di più, immagino di sì. Quando lei guarda o sente Casaleggio, cosa pensa? Orrore. Mi viene in mente un istituto psicanalitico che aveva messo su Goering, che si chiama Goering Institute, che faceva il lavaggio del cervello, poverini, a quelli, agli aviatori della Luftwaffe. Siamo a quel livello lì, cioè, siccome poveracci, Goering. È meglio che non pensare quando uno va a bombardare, no? Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Come sei, comunque sei un po' bruttarello, anzi forse sai, capito? E non rompere tu i coglioni, perché sei anche maleducato, stupido. Amore, sto a casa. Ciao, ciao mamma, ti devo lasciare, ciao. Ma chi è? Oh, chi è? Ma come questo ti devo lasciare? È uscito da un ospedale psichiatrico. No, ma richiamatelo subito, altro che sono mamma, ti devo lasciare. Che è? Richiamatemi Giuseppe per da Rovigo. I diritti. Io di... Pronto? Giuseppe? Pronto? Ma dove sei finito, Giuseppe? Pronto? Non posso ora, non posso. Perché ora? Non puoi? Devi finire su Parenzo. No, no, no, non posso. No, ma come no? Chiamatemi domani, ora non posso. Ma che quanto ti piace Parenzo? Io con te non ci parlo perché hai denti gialli, mi fai schifo. Vabbè, d'accordo, ti piace Parenzo invece? Quanto ti piace Parenzo? Non posso, non posso. Sì, ciao mamma. A Mundele. Ti piace Parenzo, eh? Parenzo è stupendo, Parenzo. Vabbè, però Giuseppe, fatemi sapere quando Parenzo farà questo giro, perché io lo vorrei incontrare, lo devo toccare per forza. Ma Parenzo, metta le mani a posto, lo devo toccare, ma metta per le forza mani a posto. Ma come le mani a posto, Parenzo? Tu con questa voce, metta io ho bisogno le mani di toccarti, zitto, ho bisogno volante di toccarti. Zanza, zanza, zanza. Una parola tu marina per il governatore dell'Abruzzo, Chiodi, lo state tutti riscaldo di sessuali. L'Abruzzo sembra una specie di hardcore, ma non hardcore come si diceva una volta, no? Non arcore. Un'aggiunta a luci rosse, amanti dappertutto, però non si dimette. Crozza ieri cita pure il sottoscritto, sentiamo Crozza sul sottoscritto. Ma tu con la Boldrini in auto cosa faresti? No, perché io le direi il finestrino lo tiriamo su, no, deve chiudere bene, è difettosa, chiude, così, caldo, freddo, perfetto, radio, siamo accesa, non le piace Cruciani? Vediamo. Telese? Eccomi. Ma adesso pure te non si sente niente? Cominciamo bene, Luca? Come non si sente niente? Oh, si sente. Io sono forte e chiaro. Meno male, meno male. Come stai? Bene, bene. Davide, ci sei? Oggi ho visto Parenzo, la camera. Hai visto Parenzo alla camera? Io non l'ho visto proprio oggi e non lo sento nemmeno. Non lo sento nemmeno, questa è la realtà. Mi dite dove sta, se sta fuori, se sta dentro, dove diavolo sta? Ma perché cade continuamente la linea? Mi dite perché cade continuamente la linea? Cioè dobbiamo fare una sceneggiata in diretta qui o no stasera? Ditemelo se dobbiamo fare una sceneggiata in diretta. È in radio, a Radio 24, a Radio 24 a Roma, e non si sente una mazza, cade la linea. Vi sembra una cosa normale, una cosa del genere? Ditemi se devo mettere in piazza questa follia. Cioè ditemelo se devo mettere in piazza la follia. Luca, aiutami te, dimmi che cosa devo fare. Eccolo. Ma eccolo chi? Appare, ho sentito una voce, non era Parenzo. Ma no, che cazzo ne so, mandasse a fare in culo pure lui. Fino in Siberia. C'è un fresh dell'ambiente. Vabbè, fra poco esco dallo studio e me ne vado a casa, Ve lo dico subito. Crozza ci ha fatto un omaggio, no? Come? Un omaggio questo. Sì, vabbè, manco, non si sente nemmeno Luca, vabbè. Ma come non si sente? Si sente poco, dai Luca, dai, forza. Sentiamo Della Valle, dai, Della Valle contro il solito Della Valle. Ma contro. Sì, così, il solito Della Valle contro coso, dai, Della Valle contro, come si chiama, Marchionne, dai. Non possiamo concedere fiducia a Marchionne, una roba presa dal TG3, da Ballarò. Marchionne ha una possibilità adesso per la prima volta, cercare di fare quello che ha promesso molto e di far lavorare le aziende italiane. Stiamolo a guardare, certamente per quello che ha fatto in passato fiducia non gliela possiamo concedere. Agnelli, spettacolari vacanzieri. Vista dall'Italia, è il mio punto di vista da italiano, direi che la famiglia Agnelli, insomma questi spettacolosi, spettacolari vacanzieri con poca voglia di lavorare dovrebbero fare un grande monumento a Marchionne, gli italiani non debbono certamente fare un monumento né a Marchionne e tantomeno agli Agnelli. Scappano via la chetichella. Come italiano direi che non è stato piacevole vedere, in un momento in cui serve essere tutti compattati su un progetto di rilancio del paese, vedere che un'azienda e una famiglia che hanno avuto così tanto dall'Italia e dagli italiani se la scappa via la chetichella solo perché gli fa più comodo. Allora, chi c'è? Tanto devo fare il punto della situazione qui, tanto qualsiasi cosa c'è scritto qua davanti è tutto finto. Vabbè, Luca non si sente. Andiamo con Milano, dai, Oscar, dai. Sì, Oscar, vai. Sì, ciao. Ciao, ciao, dimmi. Ho sentito. No, non mandatemi via tutti, non voglio più nessuno. Basta, via, tu, via tutti. Mi senti? Dimmi, Oscar, dimmi. Ho sentito Buttiglione, mi è venuta l'orticaria. Beh, ti capisco. La prossima volta, un bel collegamento dopo Buttiglione con Casini. Che almeno lui scandisce bene le parole e si fa capire bene. E poi Fini, per concludere. E poi gli consiglierei a Berlusconi quindi poi di riaprire anche a Bossi, così è a posto, abbiamo rifatto il bel bunga bunga. Ma non hanno capito che Renzi prenderà il 60%. Vabbè, vediamo, calma, no, dia tempo al tempo. Che ha sempre votato a destra. Dia tempo al tempo. Ma non c'è tempo al tempo, hanno stancato, Buttiglione c'ha l'1%, ma chi lo vota? Ma cosa vogliono? Cosa ci devono insegnare? Che vuole la destra pulita e che Berlusconi ha bisogno di loro per vincere. Ma c'è l'1%, ma con la legge nuova elettorale, con i personaggi qua all'1%, non se ne devono andare fuori dai Marone. No, ma hanno pochi voti, anche se erano stati penalizzati, dicono loro, da essersi candidati con Monti, che gli ha succhiato un sacco di voti nelle liste di Monti, capito? Ma hanno stancato, la gente non crede più in questi pagliacci, basta. Va bene, ho capito benissimo. Dai, Claudio da Pisa, ciao Oscar, Claudio da Pisa. Pronto? Dimmi, Claudio. Cruciani, l'ho fatto bene. Senti, mi ascolti? Sì, ti ascolto, ho cacciato via tutti Io volevo aprire, se possibile, un discorso un pochettino diverso rispetto a quelli soliti. Oggi c'è stata la condanna dell'ONU al Vaticano perché mandi fuori questi preti pedofili che non li vogliono dare, sono inquisiti. Perché se li buttano fuori, li arrestano. Mm. Cioè, teniamola aperta una finestra così, perché? No, io non tengo aperto nessuna finestra. No, ma faccio per dire... L'ONU ha detto che il Vaticano ha permesso con le sue politiche gli abusi sui minori, ma non mi pare una grande novità, Sì, cioè... è stato condannato dall'ONU. E questo che cosa fa questo prete con questa voce melliflua, questo papa... Che dispensa tutto buonismo, eccetera. Intanto che li butti fuori questi. Vabbè, maestro, questo papa qua non mi pare che sia responsabile per i preti pedofili o per chi. Ho capito che non è responsabile, però dal momento che è a capo, che guida questo ammararam, che li butti fuori. Va bene. E casomai che richiami quei preti che sono andati via e che sono magari sposati, quelli avevano visto Dio, quelli l'hanno incontrato, che magari li richiami. No, più che altro l'ONU dice anche che l'atteggiamento sull'omosessualità da parte della Chiesa ha portato alla pedofilia, ai preti pedofili, Ma i preti sono tutti pedofili, questo ho dei dubbi, non andavano lì. Insomma, Giuseppe da Bari, ho sentito una voce sotto, chi è, scusa? Chi è? Sono io. Ah, sei tu, dove cazzo sei, scusa? Intanto sono alla radio 24, collegato con il cellulare. Sì, benissimo. Giuseppe da Bari. Sì, mi dica, Cruciani. Senti, la linea è caduta 4 volte, qui non è che siamo a Radio Bubù, Giuseppe da Bari. Lo so, purtroppo dipende da come cammini qui, non con te, Giuseppe, lo dicevo a Parenzo, non è che stiamo qui a giocare, a scherzare, a giocare a briscola. Giuseppe, dai, vai. Niente, volevo dire il fatto di questo signore che non può pagare le 250.000 euro, però non ha detto il motivo perché ha avuto questo pagamento. Perché l'altra sera in TV hanno fatto vedere una vecchietta che ha strappato le Equitalia in diretta. Guardate che questi messaggi sono pericolosi, Chi è pericoloso? Non ho capito. Questi messaggi che fanno vedere il signore Sgarbi che lo dice in TV e la vecchietta che le strappa in diretta sono un po' pericolosi di questi tempi. Sì, ho capito. Il punto fondamentale è che io non so i debiti di Sgarbi, 250.000, 300, 350, da che cosa derivino. Cioè, ecco, questo è bello sapere. Credo di sapere che sia IVA non pagata o cose di questo tipo, dimenticanze, non lo so. È giusto che li paghi, la vecchietta magari non aveva manco i soldi per i denti. Ma non lo so. È giusto che la strappi, ma non lui che solo ce che ha. È facile dire l'Italia è un paese di ladri, di sprechi, di cose e dunque non bisogna pagare Equitalia, perché è una cosa ridicola, perché chiunque lo potrebbe dire, sarebbe una babele. Sotto certi aspetti, sì, ridicola. Poi un'altra piccolissima cosa, dopo che è stato mandato via Mastrapasqua, in 2 giorni si è dimesso da 4 incarichi, sarebbe bello vedere il suo reddito, cioè diventi 4 incarichi di quant'è. a parte che i 25 incarichi non erano 25 incarichi, comunque la mia idea su queste cose qui è molto semplice. Bisogna avere solo un incarico, solo uno pubblico ovviamente, solo un incarico pubblico, perché non si possono fare bene 4, 5, 6, 7 cose, forse nemmeno due. Walter da Torino. Sera Cruciale. Dimmi, dimmi. Allora avevo tre cose, ma molto veloce. Prima cosa, voglio prendere le parti della signora Boldrini, perché mi sembra che insieme alla Pivetti sia stato negli ultimi anni una delle migliori che hanno ottenuto la cattedra del Parlamento. Anche se sono un grillino, non un voto grillino, ma sono incazzato, perciò penso che abbiano ragione. La seconda cosa era che abbiamo la memoria corta. Quando è caduto il governo Prodi, tutti ci ricordano, anche lei, anche Parenzo, della bagarre che c'è stata alla Camera, tutti mangiavano mortadella, sì? Sì, sì, certo, certo, ce lo ricordiamo. Ma non è mica la prima volta, ma certo. Ma infatti, ma di quale violenza stiamo parlando? Non c'è stata nessuna violenza. Qualche piccolo episodio disdicevole, ovviamente, occupare le commissioni, per carità, questo non si deve fare. Ma sono piccolezze, è successo di tutto alla Camera dal 49 in poi, è successo qualsiasi cosa. Si parla di violenze, si parla di non so che cosa, follie, ma non quale violenza? Di quale violenza? Certo, se uno dice a una deputata del PD, se è confermato, tu fai solo i pompini, queste qua l'hanno querelato e se la vedono in tribunale. Volevo dirlo ancora una cosa. Poi la Boldrini, da grande classe che lo signora che è, l'altro giorno ha detto vabbè, non se ne parla più, non ci sono acqua passata, è stata una donna eccetera. Poi al signor Parenzo volevo dire che quando parlava mai di Roma, non lo so, io vi ascolto sempre, parlava dei cani buttati su quelle macchine. Io che ho 58 anni e abito a Torino, mi ricordo molto bene negli anni 70, all'inizio, cosa facevano certi italiani? Prendevano i cani, li impiccavano, li scuoiavano e li davano alle concerie per fare le pelli zaino, per pulire le macchine. Perciò non andiamo a prenderci il rom con chiunque, noi italiani abbiamo grandi colpi, ancora adesso stiamo passando queste grandi colpe. Va bene, ciao, ciao, ciao, ciao. Parenzo, è stupendo Parenzo. Io vi devo chiedere questo, per favore. Io lo vorrei incontrare, lo devo toccare per forza, Parenzo. Magari. Il giovane. Gennaro da Roma, buonasera. Salve, buonasera. Ieri ho sentito l'intervento del dottor Crepè che diciamo, ha parlato della cifra che riceve per gli interventi alla RAI e voi siete rimasti basiti e disorientati per una cifra ritenuta bassa e avete argomentato la vostra idea dicendo che si tratta di un professionista. Mi sembra altrettanto vergognosa la vostra reazione, questo paese è sì, ma non ha lo stipendio, ma non ha uno stipendio, è la partecipazione a un programma. Di quale stipendio stiamo parlando? Un'apparizione, non ho parlato di stipendio. Ma io non ero basito, ho giocato con Crepè su quella cifra, perché oggettivamente, non lo so perché, mi sembrava per una partecipazione che datava di... Il dottor Parenzo come se fosse basta per una partecipazione. Sì, ma non per... ci sembrava oggettivamente una partecipazione, come dire, di anni a un programma. Molto alta, invece, trattandosi anche se si tratta di un professionista, ci sono professionisti privati in primo luogo della sua categoria, giornalisti, che prendono 10-15 euro d'articolo lordi per le maggiori testate nazionali. Quella è la vergogna. Sì, sì, ho capito, ma lascia perdere adesso quelli che prendono questo, questo, che prendono quest'altro. No, 750 euro per una comparsa a un professionista, gente che guadagna 500 euro al mese lordi, altrettanto professionisti. Io sono un giornalista come voi. Senta, professionista sì, Gennaro, adesso non facciamo le rivendicazioni, quelli precari, quelli che pigliano 20 euro, quelli che pigliano 30 euro, non c'entra una mazza. Qui si tratta di uno che è un volto di Porta a Porta e che ci ha detto: io guadagno 750 euro a puntata, potrei pure farne a meno se anche se dovessero chiudere Porta a Porta, ma si prospettava l'idea che i grillini prendessero il potere e chiudessero Porta a Porta, insomma non si stava parlando di una cosa reale. Dice no, ma la chiudono pure, tanto comunque non è che ci campo con quei soldi lì, guadagno 750 euro lordi, che mi sembrava per la presenza continua di Crepè a Porta a Porta in tanti anni una cifra bassa, ma non perché sia bassa in assoluto, mi sembrava bassa per Crepè, hai capito? Come professionista. Sì, ho capito, amico mio, ma se a te tiro del culo che Crepè piglia 750 euro per andare due ore da Vespa, sono contento per lui. Sono contento per lui, mi fa piacere per lui, vi faccio i complimenti, ma non ci si può scandalizzare perché ci c'è gente che poi... In tutte ma le non mi sto scandalizzando, ma non ero scandalizzato. No, l'avete rimandato prima la registrazione. Ma non ero scandalizzato, sì, lo stavamo... Per fortuna c'è la registrazione. Sì, ma lo stavamo un po', ma... Vabbè. Sorpresi? Ma non è sorpresi per quella ancora, sì, come se fosse in massa, vuol dire che vivete fuori dalla realtà, parlate dell'Italia viva non conoscendo la realtà, però è questo il fatto. No, la conosciamo tanto bene, abbastanza bene, è per questo che sono rimasto sorpreso. Danzano come zanzare queste ombre. Abbiamo un ospite però, Parenzo, che è tornato, credo, non lo so. Ma io sono sempre stato. Sì, infatti. Io sono sempre stato, ma io sono qui alla radio. Sì, sì, ma infatti è quello che mi sorprende, che cade la linea alla radio. Comunque, Parenzo, so. Ma non è un problema, Parenzo. Ma non è un problema mio. No, ma invece è un problema tuo, comunque, lasciamo perdere. Eh no, perché io sono qui al mio telefono, caro. E appunto. Allora, dammi un altro. Facciamo sentire le tasse Sgarbi, va, perché abbiamo un ospite qui, le tasse Sgarbi che non vuole pagare le tasse. Domani passeranno gli spettri di oggi. Io sono arrivato al punto che, vergognandomi di questo stato, non voglio pagare le tasse per essere complice di pale eoliche, fotovoltaico, rotatorie, palazzi, e ho rinunciato alla mia pensione per darla a un fondo per il restauro delle opere d'arte. Delle pensioni, tra l'altro, questa sera. Io non ho intenzione di fare più niente per questo Stato. Non voglio pagare le tasse, sono contro le tasse buttate da me. Alessandro Cecchi Paone è con noi, buonasera, ciao Alessandro! Ciao a te, ciao a tutti voi, ben ritrovati. Allora, ma ti pare possibile che questo non vuole pagare le tasse, Sgarbi? No, non è possibile, perché una cosa è criticare il livello assurdo di tassazione dell'Italia che ammazza il paese e l'economia, una cosa è il fatto che ognuno di noi deve rispettare le leggi. No, ma come mai, Sgarbi? A parte bisogna vedere come ha accumulato 250 o forse più di debito con lo Stato, secondo te? Ah no, questo non lo so, so che lui ha molti problemi di diffamazione, cause, io gliel'ho evitata, potevo fargliene di terribili, non gliel'ho fatte, molti altri gliel'hanno fatte. No, ma questa è Equitalia però, è Equitalia. Sì, però. Sì, no, io so solo di questo, di Equitalia non ti so dire. Vabbè, Parenzo? Io non capisco perché l'amico Cecchi Paone ogni volta che c'è un'elezione si deve candidare, ma che ti frega, hai già il tuo lavoro. No, aspetta, qui è successo una cosa. Mi candidano gli altri, io non chiedo niente a nessuno. Allora, Cecchi Paone ha criticato le frasi di Scopelliti, no? Quelle sul che non candidiamo solo uomini che vanno con le donne, eccetera, eccetera. E poi ha detto, vabbè, se hai coraggio candidami, giusto? No, è giusto nel senso che lui si è scusato, ancora gli ho detto, vediamo se le scuse sono vere, se hai il coraggio candidami, e lui ha detto, certo, come capolista dove vuoi tu, dal comune alle regionali alle europee, e capisci che a questo punto gli si può credere, che io poi mi candidi è tutto da vedere. Ma ho capito, come siete rimasti d'accordo? Che ci vediamo la settimana prossima per vedere se la cosa è praticabile e se io voglio lasciare il mio lavoro. Ma davvero pensi di candidarti col partito di Alfano per le europee magari? Ma guarda, sarebbe straordinario che un partito che nasce come una nuova democrazia cristiana candidi un militante dei diritti delle persone omosessuali. In quel caso, secondo me, certo che ci penserei con molta attenzione. Se ti candidassero all'Europea Alfano, ti candideresti? Sì. Ah, invece alle comunali, queste robe qui no? Beh, è un problema di lavori compatibili. Io lascerei il mio lavoro per concludere questa militanza che tu sai dura da 10 anni. In Europa poi ce n'è bisogno, oggi abbiamo fatto. Vabbè, vuoi andare al Parlamento europeo con l'NCD, però io penso che sia impossibile. Là sono tutti contro i Froci, adesso te lo dico esplicitamente, caro. Ma per questo è divertente, se tu rendi conto il partito di Formigoni, il partito di gente con cui ho dovuto litigare per anni. Ti stanno coglionando, Giovanardi non sta. Ma io sto partecipando, ho cominciato io, quindi è tutto un gioco. Beh sì, no, ma certo, per carità, ma io non ci credo. Ma a parte, comunque Scopelliti poi non è un brutto uomo, ti piace come... No, Scopelliti è una persona affidabile, Alfano è uno che sta assumendo un ruolo da statista, quindi voglio vedere addirittura. Ministro dell'Interno, vicepresidente del Consiglio. Vabbè, ho capito, adesso statista, mo te devi candidare con l'Odici, statista, dai, su. Ho detto sta assumendo un ruolo da statista. No, voglio, ma dico, come uomo, per voi omosex, per voi gay, Scopelliti non è male, o no? Ah, tu dici esteticamente, ma è un bell'uomo, anche elegante, certo. Un bell'uomo, Sì, cioè, ci andresti a cena tu, una cena a te, un tet a tet? No, ci devo andare a pranzo per capire dove andiamo a finire con questa storia, poi ti racconto. Ma te la faresti una storia con Scopelliti? No, assolutamente no. E perché no? No, il nome potrebbe, come dire, indurre in tentazione, ma è troppo grande. Ah, perché a te piacciono quelli più piccoli, è vero? Non più piccoli, più giovani. Più giovani. Credo che abbia 50 anni, io non vorrei mai superare i 30-35. Sì, più... Ah, tu non vai mai oltre i 30-35? Ma no, no, sinceramente. Anzi, no. Sotto i 30 è meglio, diciamo la verità. 25-35 è l'optimum. 25-35 è il top. Caro Parenzo, anche a te piacciono giovani, vero? Ma no, io non... Niente, vabbè, non parlo. Guardo le persone, diciamo. Sì, guardi le persone. Sì, vabbè, dai, Parenzo. Tanto non... tanto è nullo stasera. Beh, danzano come zanzare. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. La strada. E cadono le ceneri della città. Allora, sentiamo quello che è successo a Berlusconi, perché lo racconta Franco Bechis, caro Parenzo. Franco Bechis racconta che Berlusconi e si è fatto male a una spalla. Poi abbiamo delle notizie però fresche su questo, sullo stato di salute di Berlusconi. L'incidente della palletta di Dudu. Nella villa di Arcore c'è una scala dove spesso Dudu gioca. Rincorre una palletta, la riporta chi sta in cima alla scala e se la fa lanciare. Purtroppo la palletta è rimasta sulle scale. Se n'è dimenticato Berlusconi che ieri pomeriggio, scendendo per andare ad aprire a un ospite, ha messo il piede fatalmente su quella palletta. È rovinato sulle scale e non è riuscito nemmeno a fermare la caduta, per cui di gradino in gradino è arrivato al fondo delle scale. E mi fa pensare a casa. Cercando di proteggersi con la mano destra, e la mano destra è in effetti il problema che ha in questo momento l'ex presidente del Consiglio. Dice chi l'ha visto che era piuttosto gonfia e fasciata. Berlusconi ha rivelato anche di avere una vistosa ammaccatura, un lividone sul posteriore sinistro, quello su cui è cascato in un primo momento, ma ci ride sopra. E alla fine l'incidente, l'attentato di Dudu è rimasto sostanzialmente senza conseguenze. Beh sì, anche noi abbiamo queste notizie. Chi è preoccupato per la salute di Berlusconi può tirare un sospiro di sollievo. Si è procurato un banale trauma contusivo della mano, tutto sotto controllo, mi comunicano fonti mediche vicinissime a Berlusconi. È scivolato sulle scale, però dobbiamo avere conferma di questa cosa di Dudu. Capito, Parenzo? Però da come la racconta Bechis, che ho visto oggi alla Camera, ci sono due cose strane. Sì, la prima, che cosa? Che Berlusconi va a aprire la porta a un ospite, quando invece mi risulta esserci un maggiordomo che in genere si occupa di queste cose. Questo è il primo giallo della vicenda. La seconda, che da come lo descrive il grande Bechis, sembra che il nostro uomo abbia fatto addirittura diversi gradini in derapage. Sì. E quindi questo che dovresti chiedere alle nostre fonti, capire veramente soltanto una mano, perché se uno cade per diversi gradini, vabbè, come la descrizione... Gli può anche, sarà andata bene, no. Scusa, perché gli vuoi portare sfiga? Io non auguro... No, un momento, io comunque trauma, leggero trauma contusivo alla mano, questo andrebbe da, perché se tu cadi, ma come su questo odio gradini. notizie certe non ci sono, guarda, preoccupazioni, guarda, tu dici, guarda, che vogliono espandere ottimismo, tu dici vogliono, beh, questo in genere per i grandi leader in genere è così, cioè no? Tu dici anche che l'istituto Russia, luce di Berlusconi, l'istituto luce di Berlusconi nella Russia comunista si diceva il leader c'è, sta benissimo, certo, era imbalsamato da mesi, certo, però. Certo. Comunque, la notizia ufficiale dell'istituto luce berlusconiano è che tutto sotto controllo, trauma, giustamente mi hai corretto, trauma contusivo della mano, un banale trauma contusivo della mano, scivolato sulle scale. Stiamo cercando di capire da fonti dirette se c'è un contributo di Dudu, cioè della pallina. E la pallina si è fatta male poi? Nessuno si preoccupa della pallina? Ma no, ma perché uno si dovrebbe occupare della pallina? Tutti si preoccupano di Dudu, no, no. Berlusconi. E la vabbè, pallina è con noi fa. Alessandro Cecchi Paone, grande leader del mondo omosessuale, ti chiamo così Alessandro. Ma che lavoro fai, mi chiedono, Cecchi Pao, adesso? Io insegno in tre università e sono commentatore ufficiale di varie trasmissioni sia della RAI che di Mediaset. Ma scusami, ma le tasse le paghi oppure come sgarbi? Porca miseria, le pago tutte fino all'ultimo centesimo, le critico come livello generale, ma personalmente pago tutto. Senti, ma ti pare possibile, Alessandro, che la nazionale di sci e di altri sport invernali va in Russia... sono più di 100, credo, 130, non mi ricordo bene. È possibile che non ci sia uno, ma dico uno che fa coming out, ma dico uno della nostra delegazione. Ti pare possibile oppure no? No, non mi pare possibile, ed è per questo che io continuo, grazie anche a voi, questa battaglia con chi è disposto, come dire, a dare ospitalità. Se è il nuovo centrodestra, adesso si è unita, mi hanno chiamato da Reggio Calabria, una lista che si chiama Liberi di Ricominciare, vabbè, tra laici e socialisti. Ma quindi, al di là di questo, ma ti pare possibile che la nazionale di sci o la nazionale di sport invernali non ci abbia un gay che si dichiari? Ma certo che non è possibile, ma la quanti cosa ce ne sono? Abbiamo un presidente del consiglio che va lì, e questo chiaramente blocca chiunque possa voler venire fuori. È chiaro che c'è dall'alto un'indicazione: state buoni. Se Letta va lì dopo aver abolito il Ministero delle Pari Opportunità, è chiaro che partiamo da zero. Cioè addirittura Letta impedisce agli atleti gay della spedizione olimpica di venire fuori, no dai? No, no, ma andando lì, come dire, non li incoraggia. È chiaro che Hollande, Merkel, Obama, che non ci vanno, incoraggiano i loro atleti GLBT a esprimersi. Quando il Presidente del Consiglio se ne frega e va lì, vuol dire che è meglio che star zitti. Ma scusa, come mai Letta secondo te... Vabbè, sono una roba di interessi, affari, le Olimpiadi... Cioè, ti ha deluso sto Letta andando a Sochi? Non mi ha sorpreso, ripeto, lui ha approfittato delle dimissioni della Idem per abolire il ministero, mentre doveva cambiare semplicemente il ministro, quindi vuol dire che per questi temi non ha alcuna sensibilità, e quindi non è un caso che sia uno dei pochissimi che va lì a rendere omaggio a un leader omofobo. Ma scusa, ma secondo te in questa nazionale di sci non è che conosci qualcuno te come al solito? No, non conosco nessuno, ma ti porto la solita cifra tra il 5 e il 10% sicuramente. Tra il 5 e il 10%. Vabbè, adesso, sì. Non è che per forza su 100 persone. Ma non dappertutto, fra il 5 e il 10% di qualunque agglomerato umano. Vabbè, può darsi che tra gli sciatori non ci stanno froci, scusami. La statistica la puoi pure dire che ce ne sono tantissimi da una parte e non ce n'è nessuno dall'altra, ma statisticamente almeno 5 su 100 ce ne stanno. Comunque sto Putin alla fine piace ai gay, è molto macio, diciamo che soprattutto a quelli che hanno qualche tendenza sadomaso. Addirittura? Beh, per forza, lui si presenta, come visto, con i leopardi, con i fucili, qualcuno che insomma vuole essere sculacciato. Beh, diciamo che però piace al mondo gay, a un certo mondo gay piace, dai. Al mondo gay è un po', come dire, sadomasochista, ma non a un mondo gay romantico. Vabbè, ho capito, tu a che appartieni, a quale mondo gay appartieni? Romantico. Vabbè, ma non è che quelli sadomasochisti, tu dici che al mondo sadomasochista piace questo Putin, diciamo... Ma scusa, lui, te ricordi quella foto di lui a torso nudo con i pantaloni militari, il fucile in mano mentre stava a caccia? Beh... Quello non può piacere a una persona romantica di qualunque orientamento. Beh, per cui alla fine secondo me ci sta qualche gay se ne fotte della roba di Putin omofobo, le leggi russe, eccetera. Alla fine... Beh, ma come in Italia, fino a che abbiamo cominciato a parlarne, grazie anche a voi, negli ultimi anni ci sono sempre stati, ma di nascosto. Ci sono sicuramente anche in Russia, sicuramente anche in posizioni di potere. Cioè, tu dici che in posizione di potere... Ma tu mica sarà gay Putin, no? No, lui no. Mi hai la certezza? No, gli piace. No. No, non ne ho la certezza. Diciamo che certamente di solito il gallo che canta per primo è quello che ha qualcosa da nascondere, però lì credo che lui abbia fatto un'operazione con la Chiesa ortodossa di potere, non c'è altro motivo. Comunque tu ci stai dicendo che a molti gay italiani in realtà Putin piace. A quelli sadomasochisti. Quanti sono? Che ne so, questo non te lo so dire. Per quelli sadomasochisti. Ma sì, ma tu lo sai, sei tutto del mondo gay. Cioè, ne sai tutto. No, non conosco le percentuali dei sadomasochisti. Diciamo che un 20% del 5%, dai. Il 20% al 20% del mondo gay piace, alla fine Putin e quindi piace. Sono d'accordo con Letta. Sono d'accordo con Letta che va lì, dici? Sì. L'altro 80% invece no, vorrebbe che non ci andasse, come non ci vanno Obama, Merkel, Hollande e Cameron. Senti, ma tu col tuo nuovo fidanzato sei sempre attivo? Cioè, te lo scegli sempre un po' femmina? Mai femmina. Mai? Un fatto, con tutto il rispetto per le persone femminate che non hanno sì, nulla di sbagliato. Per carità. No, certo. È un rapporto di amicizia virile quello che piace a me. Ah sì, però giovane, comunque giovane. Beh, se no... Come viene fuori quella parte, come ti posso dire, sempre da un po' da insegnante, da tutor, sì. Qualcosa mi piace insegnare a me, come lo insegnavo le mie compagne, mi piace insegnarlo ai miei compagni. Ti piace essere un po' padrone da questo punto di vista? No, mi piace essere un po' maestro. Un po' maestro. Sì. Vabbè, ma questo, Parenzo, è normale, scusa, non ho capito, ognuno c'ha i suoi, anche nelle... anche tra le coppie eterosessuali c'è questo ruolo, certo, no? Io lo facevo con le mie compagne, un po' pigmalione, più giovani sono meglio è, su, diciamo. No, non troppo. Beh, non troppo. Entro una certa 25-35. No, detto. Ma anche sotto i 25 secondo me non disdegni, dai, su, anche sotto i 25. Vabbè, insomma, se sono 24 non è che mi tiri indietro. Appunto, però dai. Ma lo sai che è successo a Nuoro? Che hanno messo un cartello, un manifesto con un bacio gay, con un cartello contro l'omofobia, dillo con la luce, e c'è un tizio, un tizio del PDL, ex candidato, un tale Francesco Pili, che ha scritto sulla sua bacheca Facebook, anch'io lo dico con la luce, Froci, quel disgustoso cartellone affisso davanti a una scuola elementare, una barbarie. Vabbè, purtroppo ci sono ancora queste cose, caro Alessandro. Tu mi chiedete perché, se uno mi dice ti candidi, io so il gioco, perché comunque se ne parla e in questo paese ce n'è bisogno, visto che non riusciamo ad avere lo straccio di aspetta che lo chiamiamo, chiamiamo questo tizio qua, chiamiamo questo tizio, vediamo se ci risponde. Parlaci tu, Alessandro. Dice, perché è scritto Froci? Perché sei così omofobo? Perché non si possono mettere i cartelli con due che si baciano davanti a una scuola? Perché non si possono permettere? Non si possono mettere questi cartelli. Cosa succede se uno mette questi cartelli? Aspetta che facciamo il numero. Adesso, con calma, con grande calma lo facciamo. Come si chiama? Si chiama Francesco Pili. Francesco Pili. Un attimo solo, Francesco Pili. Io sono qua. Aspettiamo. Vai, che non è del nuovo centrodestra. No. Ecco, parlaci tu, Alessandro. Assolutamente insopportabile, guarda. È il contro natura. Esterico. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico. Ci riproviamo, Alessandro? Sì, sono qua. Signor Pili deve essere alla radio e ha capito che stavamo per cantargliene quattro. Dici? Non credo. Vabbè, in che città è successo questo? A Nuoro. Riproviamoci domani. Ciao caro. Ciao, grazie. Giovanni, Milano. Sì, buonasera. Dimmi Giovanni. Io ho inventato un nuovo lavoro, il codista. Sì. Faccio le code per gli altri. Sì, ho letto e da qualche parte. Volevo prendermi anche la sua coda, sì. Dottor Cruciani, e anche quella del dottor Parenzo. Sì, forse ne abbiamo bisogno, sì. Sono disponibile, quindi vi faccio lo sconto. Quindi... Va bene, se ho bisogno di trovarmi un altro lavoro la chiamo allora. Ma dove va a fare queste code? A Milano, nei vari uffici pubblici, nelle poste, l'agenzia delle entrate. Ho capito, non è che la gente va lì a chiedere lavoro, scusa Giovanni. Beh, però è utile. Come? Non è che la gente va lì a chiedere lavoro, scusa. No, io appunto, io mi prendo le pratiche degli altri e faccio le code. Ah, le pratiche tu dici, le pratiche. Esatto, ho anche le bollette da pagare. Che dici, quindi... Parenzo? Non ho capito. No, questo è un genio, perché ad esempio io stamattina sono andato in posta alla Piazza Mazzini, a Roma, e c'era una coda pazzesca. Effettivamente sono rimasto lì con il mio giornale e sono stato 50 minuti ad aspettare. Se ci fosse il codista, se fosse stato il codista, forse quanto gli davi? 5 euro? Dici, scusi, quanto prendi tu, Giovanni? Io 10 euro l'ora. 10 quindi, euro l'ora. Un po' tantino. No, vabbè, è giusto, 10 euro l'ora, è giusto, dai. No, un prezzo onesto. Faccio io, sto io lì, leggo il giornale. Dottor Parenzo, la prossima volta mi chiami. No, perché non mi conviene, non è concorrenziale. Ma quella a Milano poi, che c'entra? Io sto lì a leggere i giornali e faccio la coda intanto. Dovrebbe abbassare i prezzi, perché è troppo caro. Io lo farei per 5 euro, ad esempio. No, ma 10 ci euro penserò. Va bene. Ma Giovanni, non ho capito, quanti clienti hai tiri su ogni volta? Ma dipende dalle giornate. Ci sono giorni in cui mi chiamano alcune più persone, altre meno. Quindi mi sto facendo conoscere. Cosa conoscere. Famo, oltre a questo? Ma in un mese quanto hai fatto? Ma non saprei quantificare, perché ho iniziato da meno di un mese. Però stanno iniziando a conoscermi, quindi... Insomma, spero che la cosa vada sempre meglio. Ma dove opera? In Italia o? A Milano, dove opera? A Milano. Dove va? In trasferta? Per il futuro vorrei aprire un'agenzia e quindi espandermi magari anche un franchising, Italia. No? Sì, un franchising. Paolo da Vercelli, sì, franchising, ci deve essere un marchio prima. Paolo da Vercelli. Fa il marchio con il codista. Vai. Pronto? Dimmi. Sono da Paolo da Verona. Sì, Paolo. Ah, finalmente. Intanto, beh, sei fortissimo te, Parenzo un pochettino meno. Ma volevo parlare delle nutrie. Ancora, che c'è di nuovo sulle nutrie? No, delle nuove nutrie. Casini e Bottiglione, no? Sono quelli che hanno eroso l'Italia sotto banco, l'hanno portata ad affogare nella situazione che siamo adesso e sono ancora lì. Ma il fatto più grave è che si credono degli intoccabili questi qua, sono come dei papi, non rinunceranno mai, loro pensano che senza di loro l'Italia non può andare avanti. Cioè, è qualcosa di straordinario il modo di pensare di questi due... Dice Bottiglione, Casini... Questo... Sì, è tutta la sua congrega, guarda. E poi avrei anche un suggerimento per Chiodi, no? Io ho appena fatto un piccolo intervento sulla prostata, lo dico pure, così in confidenza. Non può più trombare, eh? No, io trombo ancora, anzi sì. Adesso sai cosa faccio? Beh, sono in macchina e sto tornando da Milano, vado a fare le dilatazioni. C'è una bella signora che me lo prende e in bocca e mi fa e mi sospira dentro. No, scusami Paolo, spiegami un po' questa cosa, non ho capito bene. No, devo fare delle dilatazioni, no? Sì. E allora no, c'è una bella signora che pago e che mi soffia dentro per 20 minuti e mi fa una bella dilatazione, no? No, ma questo qua è una cosa medica oppure... No, è una barzelletta. Che ne so, io non le conosco queste tecniche. Cioè, mi stai dicendo che nonostante l'operazione alla prostata che fai riesci comunque a... Ah beh, certamente sì. No, ma è per sapere, eccetera. Ma sei appena andato da questa signora oppure no? Ci sto tornando. Ah, devi andare adesso, cioè tu vai sostanzialmente, ci stai dicendo che vai a prostitute. Sì, no, scherzi a parte, questo te l'ho detto, era una battuta. La cosa seria è che, cioè, io condivido anche il discorso, a parte le volgarità di Sgarbi, no? Però voi dovreste qualche volta domandarvi perché gli italiani cominciano a dire, no, qua bisogna prendere una pistola, bisogna sparare, no? Perché se poi, Luigi, ogni volta che apri un giornale c'è una corruzione, mica parlerà sul serio sullo sparare. No, ma figurati, ma però sono i discorsi della gente. Ma che discorsi della gente, dei matti? Un attimo solo. Il grosso problema in Italia è che non si tromba più. Ma se lei le tolgono il microfono, non tromba più pure lei. Sì, ce l'hanno con me, non sono mica una mosca. Ah, ma anche io te lo dico con affetto. Se vieni ti posso pure cambiare i connotati perché sono un artista, ti faccio diventare bello. Parenzo alle prese con il senatore Giarrusso, Movimento 5 Stelle, oggi al Senato. Ma allora sei andato pure al Senato oggi a rompere i coglioni? No, era davanti alla Camera, non è che i senatori vanno solo al Senato. No, che ne so, siccome Razzi, Giarrusso, sentiamo con Giarrusso, perché qui è scoppiato un caso oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, alcuni deputati, credo del 5 Stelle, Tofalo e altri, sì, pagherebbero attraverso una ditta privata, cioè una società creata dallo stesso Tofalo, senza pagare i contributi INPS, tutto secondo la legge ovviamente. No, non è così. Pagherebbero i loro collaboratori in questo modo. Come non è così? È così? No, ce l'hai riassunta male. È un escamotage previsto dalla legge per non pagare lui i contributi. Sì, per non pagare e lui i contributi. Attraverso la società, però non è che non pagano i contributi. No, li paghiamo noi i contributi. Sì, ecco, bravo, esatto. Li paghiamo noi, cioè i contributi vengono pagati da noi perché le società... Non escono dalle tasche del deputato, diciamo, esatto, direttamente. Ecco, sì, questo. Ci sarebbero 2-3 deputati coinvolti in questa cosa, cioè praticamente, a parte che non si capisce perché bisogna costituire una società a parte per pagare i collaboratori, comunque, ecco, questo Tofalo ha fatto una società a suo nome e in questo modo paga i suoi collaboratori, che non sono pagati, cioè, direttamente dai soldi del Senato, ma attraverso i soldi di questa società. E siccome è una società di nuova costituzione, eccetera, eccetera, di una singola persona, non paga i contributi INPS, cioè li paga, ma non lui, li paghiamo noi. In questo modo sarebbero pagati alcuni di questi collaboratori. Giarrusso. Senti Giarru, è uscita questa notizia sul Mattino di Napoli. Movimento 5 Stelle, i deputati creano ditte per assumere i portaborse. Ma è già carnevale. Come carnevale? Guarda, il trucco consente al Sud sgravi totali sui contributi. Ma che trucco? Come si risponde a questo? Assolutamente, ci sono dei contratti di lavoro a tempo determinato. Tutti regolari e regolarmente registrati, non si aprono ditte individuali. Sempre fedele alla sua natura. Beh, però sono state aperte, Giarrusso, ditte individuali. No? E come no? Sentiamolo sul Napolitano, dai. Giarrusso con Parenzo. Senta, invece sulla questione del boia. Ma la deve chiedere a chi l'ha detto. Lei non lo condivide? Io non l'avevo detto, ma di fatti mi pare che si sono scusati, no? Ma non è che in quest'ultimo periodo si stanno alzando un po' i toni, un po' troppo? La situazione era grave, le provocazioni sono state tante, quindi... C'è anche Napolitano ha provocato? Ma moltissimo. Napolitano un provocatore, Taormina consulente di qualche esponente dei 5 Stelle sull'impeachment, sentiamo. E l'impeachment a che punto è? Ci stiamo lavorando, oggi c'è la prima seduta. Ma è vero che vi siete consultati con Carlo Taormina per scrivere l'impeachment? Carlo Taormina chi? L'avvocato Taormina. Ma per favore. L'avvocato Taormina sostiene di essere stato contattato da qualcuno del Movimento 5 Stelle per scrivere tecnicamente l'impeachment. Ma chi, dal falso Grillo? No, non dal falso Grillo. Da quello che girava, presente quello che girava. Probabilmente gli ha telefonato il falso Grillo che girava e gli ha detto, dico, sono Beppe, mi dai una mano. Ciao. Oh, però sto senatore Giarrusso è simpatico, Molto. È simpaticissimo. Ma dimmi se sei un cretino, io ho detto hai ragione. Alza la voce, non si sente, Gianni da Milano. Oh, ma come glielo devo dire io? Gianni da Milano. Buonasera. Sì. Buonasera, ma io sono stato abbastanza sorpreso dalla vicenda di Crepè. Cioè? Spiego perché. Ma in effetti, cioè, non mi scandalizzo per gli alti stipendi, figuriamoci, vivo anch'io in questo mondo. Però in effetti Crepè, come qualunque altro professionista, viene chiamato in televisione in quanto professionista, no? Quindi, secondo me, deve prendere quello che prende un professionista, 100, 200 euro, 300 euro, perché se in realtà cominciamo a parlare di cachet, questi allora sono dei guitti, no? Allora li equipariamo, cioè non può secondo me nei Cruciani dire che 750 euro sono una cifra bassa, perché in assoluto non lo sono, se lei va dal più grande specialista, non so, per farsi una diagnosi, ha una malattia. No, però Gianni, i cachet in televisione, euro, no? Scusa Gianni, in televisione, Gianni, in televisione i cachet, anche per le comparsate alcune volte, anche per andare a... Poi a me sembrava basso perché Crepè lo immagino come una specie di colonna di Porta a Porta, come l'immagine di Porta a Porta, e a mano che uno va avanti e diventa l'immagine di una trasmissione viene pagato sempre di più. Cioè io mi ricordo l'amico Mughini ai tempi di Controcampo, ti sto parlando di 3, 4, 5 anni fa, forse 5 anni fa, insomma adesso non le dico quanto prendeva, ma insomma delle cifre considerevoli, giustamente anche. Cruciani, ho capito il suo discorso, però secondo me questo fatto, come spesso accade nelle cose apparentemente più piccole, in realtà è il segnale. Cioè, ripeto, se danno a Frank Sinatra, fosse ancora vivo, c'è talento, eccetera, che è un dono di Dio, della natura, mettiamolo come uno vuole, va bene, ma in realtà Crepè, come un criminologo, come un medico, vanno lì perché sono dei professionisti di quel ramo, no? Quindi, appunto, realtà, appunto. Essere, ma non c'è un valore nel comparire. Vabbè, uno può discutere fino all'infinito di queste cose. Io sono la mia impressione quando me l'ha detto è che era poco. Dopodiché poi magari mi sbaglio. Marco da Roma. Pronto? Ecco, sì, beh, certo, l'impressione era poco perché con quello che insomma che siamo abituati, diciamo, a trattare voi, probabilmente poco. Ma che c'entra quello che trattiamo noi? Non c'entra niente, Marco, su. No, c'entra, insomma, sono non c'entra nulla, diverse. Non c'entra. Vabbè, comunque le posso dire una cosa, Marco, le posso dire una cosa, non a lei, anche a Parenzo, ma mi divertono tantissimo questi intellettuali di sinistra, tipo Remo Bodei, tipo anche Dario Fo, che adesso sono, come dire, stupiti e si pentono quasi dell'appoggio che hanno dato a Grillo, no? Almeno io sto zitto perché non ho dato nessun appoggio, ho semplicemente votato e l'ho dichiarato, ma per me il voto finisce nel momento in cui metto la scheda nell'urna, per cui non me ne frega niente, non mi sento addosso alcuna responsabilità. C'è qualcuno? Invece dovresti sentirti responsabile. C'è invece qualcuno che ha fatto degli appelli per fare il governo insieme al Partito Democratico. Adesso Remo Bodei, che è uno studioso, eccetera, eccetera, si è pentito. Un filosofo, bene, dice incipienti e telecomandati, analfabeti, deriva autoritaria. Ma perché prima che cosa sia? Cioè, non si capito. Le premesse qual erano? Le premesse qual erano? Vedendoli all'opera si è ricreduto. Ma sembra legittimo questo. E Dario Fo che parla di provocazioni degradanti. Capito? Ha ragione. E dice che il Papa fa la vera opposizione con moderazione e ironia. Lasciamolo perdere il Papa. Allora, Marco, non ho capito. Marco? Sì, no, io dimmi, ecco, mi senti? Sì, sì, dimmi. Sì, no, ho chiamato anche per dire, non vedo perché si deve scandalizzare tanto che non paga le tasse Sgarbi. Cioè, la vede come una cosa così fuori da ma no, normale, ma io non mi scandalizzo, ma non mi scandalizzo di nulla, figuriamoci se mi scandalizzo perché Sgarbi dice di non voler pagare le tasse. No, Sgarbi, pare che ci sia pare che ci siano dei soldi che lo Stato gli deve, ci sarà una causa a marzo, a maggio, non lo so, quando lui era al comando del Padiglione Italia là a Venezia, non lo so, vedremo. Certo, se uno deve dei soldi, deve dei soldi, punto, poi i soldi aumentano, non so se sia possibile la compensazione. Ci sentiamo tra un attimo. Ormai è tutto degradato ormai. La zanzara è quell'odioso insetto. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo fiè. Ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli. Giovanni da Genova, buonasera. Oh, buonasera, salve. Dica. Allora, niente, no, io mi volevo collegare al discorso... Sì, ma alzi la voce, perché questa sera non ne posso più di gente che parla piano, gente che non si sente niente, gente che cade la linea, se ci si mette pure lei, alzi la voce, su, dai, forza! Un basso, dica al suo regista di tirar su. Vada. Allora, mi voglio collegare al discorso che ogni tanto ritorna degli omosessuali, no? Sì, sì. Io stavo cercando la Radio Padania in autostrada, ora mi sono fermato, però poi mi sono caduto su questa. In che senso cercava la Radio Padania? Non ho capito. Perché io ascolto solo quella, poi però poi o Radio Maria o la vostra, vabbè. Comunque ho sentito il signor dottor Cecchi Paone. Ecco, e io l'ultimo neurone rimastomi mi porta a pensare che sì. Secondo me. Secondo lei, sì. Secondo me. Sì, secondo lei. I primi omofobi. Omofobi. Sono gli omosessuali. Addirittura. Si può dire anche per le signore. Sì, in che senso? Scusi, Giovanni, mi faccia capire bene questa cosa. I primi omofobi sono. Non so che per lei potrebbe essere un po' difficile, ma la prendo per mano. Cioè, secondo lei i gay sono malati? No, queste sono cose che dice lei. No, è una domanda, è una domanda. Io no, ho detto un'altra cosa. Ha detto un'altra cosa. I primi omofobi, cioè quelli che sono odiano i gay, sono gli omosessuali. Vuole che le spieghi il mio concetto? Non so, mi spieghi, se non è troppo complesso, se non è una roba che uno deve interpretare, non so, deve chiamare Freud. Beh, no, è semplicissimo. È semplicissimo, sono, sì. Sono i primi a rifiutare il diverso. Ah, lei dice sono i primi a rifiutare il diverso. L'unico diverso che accettano è la propria madre. L'unico diverso che accettano è la propria madre. Cioè, non accettano il diverso, cioè non accettano l'eterosessuale, cioè non accettano il diverso, cioè quello che la pensa diversamente da loro. No, che è diverso, non che la pensano. Ma diverso. Che vuol dire? Accettano gli eterosessuali? Prego? Lei come si sente? Un diverso? No, un diverso dall'omosessuale. Io accetto tutto, anche lei accetto, figuriamoci. Beh, dunque? Quindi intendo dire che sì. L'omosessuale, sì. Il primo problema che ha è quello di non accettare una persona diversa da lui, cioè la donna per esempio per l'uomo o l'uomo per esempio per la donna. Ma non è vero, ma ci sono gay e gay. No, non è vero, non è vero, è un mio punto di vista, non è vero, è il mio punto di vista, non è che non è vero. Vabbè, ho capito Giovanni. La ringrazio. Grazie, Sergio da Roma. Scusate. Dimmi. Ma c'è Cecchi Paone, è andato via? No, è andato via Cecchi. Vabbè. Perché? Sto tranquillo. Vabbè, ero fuori target, ho 45 anni, sono un bel ragazzo, però per fortuna ragazzo, uomo, ho 45 anni, quindi sto vabbè, fuori ho target. Capito, che vuol dire? Vabbè, dai, una battuta. Senti, devo dire una cosa, anzi due cose riguardo l'Otito, proprio velocemente. Adesso ieri hai fatto sentire la telefonata. Sì, poi l'abbiamo messo anche in diretta, sì. Allora? Purtroppo c'è un fratello romanista che... Vabbè, a parte questo, dai, forza Sergio. No, velocemente. Hanno fatto vedere il telefonino che lui l'ha messo in viva voce, che costa 19,90 euro, cioè è spettacolare quella foto. Ma che cosa? Non ho capito. Il telefonino di Lotito, sì. Che lo mostra per far vedere il tifoso che, sì. Che sì. Parlava, che gli diceva di lasciare la Lazio praticamente. Sì. Fanno vedere il telefonino, lo riprendono, fanno vedere che un modello che costa 19,90 euro. Ma questo è il bello di Lotito. E quindi? Ma questo è il bello di Lotito, perché c'ha talmente tanti telefonini che a un certo punto c'era pure uno da 20 euro. Vabbè, pure lui sta in spending review come Crepè. Ciao Gennaro, una cosa di Lodito. No, basta, chi se ne frega di Lodito, mica è una trasmissione di calcio questa qua. Dai Sergio, su, dimmi, dai. Lo mandi a quel paese, a Lodito. Sì, vabbè, Gennaro da Napoli, dai, forse chiama qualche radio romana. Volevo dire che, diciamo, il filista di Milano non ha inventato proprio nulla, perché a Napoli il filista che fa i servizi in tribunale, che fa le notizie, esiste da sempre, tant'è che ci fu anche una trasmissione delle Iene e poi si è aperta la partita IVA. Ma Gennaro, non è la prima volta. E quindi non ha scoperto proprio nulla, magari sui pagamenti non si fa, perché magari spariscono i soldi, ma il filista c'è sempre stato. Parenzo, dopo 3 anni riesci a capire che non puoi parlare addosso a Gennaro, oppure ti devo fare un padrone, decalogo? Sì, padrone. No, se vuoi ti scrivo un decalogo, se vuoi. Allora, che cosa hai da dire a Gennaro? Mi dici che parlo del momento sbagliato. Vai, la voce parla, è troppo bassa. Parla con Gennaro, dai, parla. Parenzo, è stupendo Parenzo. Vedi che c'è questo di Rovigo. No, dico a Gennaro, la cosa che fa arrabbiare è semplicemente che sono i 5 Stelle anche a farlo, che dovrebbero essere i primi, mentre uno se lo aspetta dagli altri magari. Ma che c'entra i 5 Stelle? Sta parlando dei codisti. Parlando dei codisti, quelli che fanno la coda. Non sono contro per mestiere le code. Gennaro, grazie. Davide, provincia di Roma. Quello è rincoglionito. Davide, provincia di Roma. Sì, dimmi. Pronto? Vai, Davide. Oh, ma che gli è successo a Parenzo stasera? Mi hanno menato. È una vita che è così. Sono mesi che è così. Cioè, non... Mamma mia, proprio mosso. Io volevo dire una cosa. Che, vabbè, a parte che Buttiglione che dice che se la cava con difficoltà sto periodo, non apprezzo sentirlo in diretta. Per tutto il resto c'è Taormina. Devo dire che Taormina... Non ho capito, Davide, scusa, ma Buttiglione... che fa il miglior servizio alla causa gay. Perché? Io se fossi gay... Sì. Quando c'è il Gay Pride lo metterei su un carro allegorico con un megafono a tutto spiano che dice le cose che dice Taormina alla vostra trasmissione. Sei d'accordo o no? Ma adesso non esageriamo, non penso che diffonderanno Urbi e Torbi il verbo di Taormina. È talmente parodistico che fa l'effetto opposto di quello che vorrebbe. Ma quello non c'è dubbio. Ecco, allora volevo dire il contrario della Boldrini, perché la Boldrini con i suoi interventi in questi giorni, soprattutto con la piazzata che ha fatto alla trasmissione di Fazio, ha ottenuto l'effetto opposto, sta sdoganando il termine stupratore. Ma no, no, non ha sdoganato nessun termine stupratore. L'ha sdoganato, ti dico che l'ha sdoganato. Ma ho capito, non è che sono... Che su internet si firma un potenziale stupratore. Sì, d'accordo, per prendere in giro la roba della Boldrini che ha parlato di potenziali stupratori, quelli che scrivono sul blog di Grillo, cosa che ovviamente non è vera, ma questo è stato un clamoroso errore della Boldrini. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Io adoro il camionista nero che ha chiamato ieri, il senegalese, il mitico senegalese. Sentite. Io sono nero, vengo dal Senegal. Quando mi vedono comincio a girarmi intorno sul camion, mi danno fastidio che io devo fare una pausa di 45 minuti. Perché ti girano intorno? Perché ti girano intorno, Califa? Mi girano intorno perché loro quando non vedono un nero, sai, il famoso detto che ce l'abbiamo lunghi, duri e grossi, e non è vero, noi siamo tutti uguali. Se chi se la fungo grosso è uguale. Io non riesco a capire questo mito, telefona che, per dire. A me danno fastidio certe volte, perché mi preparo la pasta per mangiare e sono lì davanti. E non posso dirgli niente perché qualunque cosa dici, ti dicono sei razzista, ma io non sono razzista. Il mitico Big Black Bamboo. Praticamente questi qui che vanno in macchina, non so se chiamarli Pinocchi o Frosci, comunque io ti dico una cosa. Dimmi. Io proprio ieri andando verso Venezia uno mi si è affiancato con la macchina, abbassando i pantaloni, ma quello rischiava anche di causare un incidente, ce ne sono in autostrada. Però una cosa te la devo dire, Cruciani, se i camionisti non ci vanno con loro, questi qui non sarebbero andati sull'autostrada. si punta di tutto lì, perché ognuno nega, ma la notte li vede. A me non mi danno fastidio, ma basta che non vengono da me. Intorno c'è un mondo. Questo era Khalifa o Khalifa, senegalese autotrasportatore che denuncia quello che accade in autostrada. Sai che mi piace sempre di più il finanziere, quello che delle isole Cayman, che si chiama Serra, Davide Serra, perché dice i politici devono andare in periferia, troppi avvocati sono come un cancro, le leggi del lavoro le capiscono solo gli avvocati, ci sono troppe leggi sul lavoro, è troppo complesso e nessuno ci capisce niente. Questo Davide Serra è veramente il numero uno. Volevo sapere dove paga le tasse. Ma che me ne frega dove paga le tasse, le tasse le paga dove si pagano di meno, capito? Non attaccarlo, sì, fa bene. Bravo. Dove si pagano di meno paga le tasse e fa benissimo. Fa, se le paga dove si pagano di meno fa benissimo. Se io non lo so, ma non me ne frega niente, fa benissimo. A me invece interessa. A te ti interessa, a me no. Se le paga in parte in Inghilterra dove si pagano di meno fa bene. E guarda un po'. Vittorio. Vittorio. Sono qua. Ciao. Senti, ma che cos'è questa storia delle tasse che non paghi? No, io non pago le tasse, sono loro che non pagano me, nessuna storia. Io non voglio pagare le tasse a uno stato criminale che usa i soldi miei per fare paleoliche, distruggere il paesaggio, fotovoltaico. Però scusami Vittorio, va bene, uno può protestare con lo stato ladro e sono anche d'accordo con te. Io sono convinto che ancora fare uno sciopero fiscale e non dare soldi a gente che costruisce il palazzo della regione di Torino, 220 milioni di euro. Sì. Non gli do una lira, non voglio partecipare. Ma quanti soldi devi dare a Equitalia? Non ho capito. Nulla, non devo nulla, loro devono a me 150 mila euro che non mi hanno mai dato come sovrintendente a Venezia e come direttore della Biennale. Vabbè, ma uno non può fare la compensazione. Sì. No, questo me l'ha proposto Beffer, non la faranno, devono farla. Ti pare possibile che tu lavori gratis o ti pagano? Io non ho capito che devo lavorare, che hanno preso me per grullo. Io ho fatto il sovrintendente con decine di attività, di mostre, senza essere pagato. Mi paghino, se hanno bisogno di soldi li prendono dal ministero. L'ho detto a Brai, l'ho detto a tutti. Le tue cartelle esattoriali con Equitalia da che cosa dipendono? Da IVA non pagata? Da che cosa? Non lo so, non ho idea, non le ho mai viste. Da quando ho parlato con Befera gli ho detto che tutto quello che lui volesse avere da me lo deve avere dal ministero che non mi ha dato i soldi. Ma ho capito, però il ministero non è possibile che non ti ha dato i soldi, scusa. Non mi hanno, invece è proprio possibile. Se voi faceste ogni tanto qualche scandalo su delle cose autentiche, io posso documentare che ho fatto per un anno e mezzo il sovrintendente con 1000 mostre e per un anno il direttore della Biennale, non mi hanno pagato, non so perché. Però scusami Vittorio, io so che su questa cosa qui c'è una causa in corso, non è sicuro che non ti abbiano pagato. No, è sicuro che non mi hanno pagato, sì, ma vorrebbero dire di non pagarmi, che tu fai. E perché? Perché dicono che non ti vogliono pagare? Perché la Corte dei Conti aveva revocato l'incarico, ma io l'ho svolto affettuosamente, il lavoro c'è stato, le firme ci sono state, le mostre sono state fatte, non è che puoi non pagare qualcuno. Cioè, quando devi polemizzare con qualcuno fai la polemica, non devi difenderlo o non lo difendi, lo devi difendere in quanto lavoratore. Quindi la UIL o qualunque, lui fece l'attacco a me perché mi avevano nominato sovrintendente senza il concorso interno, la UIL deve garantirmi che per però da questo punto di vista, scusami, sarebbe facile dire uno ha una cartella esattoriale da 250.000, non so, che si è accumulata per varie cose, no, IVA, e dici non la pago perché intanto lo Stato... Io non la pagherei comunque. Perché non la pagheresti comunque? Perché non voglio collaborare alle spese di uno Stato criminale, però in questo caso siccome mi devono dei soldi li prendono di là, nulla in contrario, facciano, io non voglio avere una lira dal ministero, li prendono là. Parenzo, attaccalo se hai coraggio. Parenzo. Questa è una cosa che ha proposto Beffera, quindi il problema è molto semplice. No, ma io su questo, lui da un punto di vista... Aspetta Vittorio, aspetta. No, guarda, adesso voglio dire, ammosciamo Cruciani, da un punto di vista della logica, Sgarbi ha anche ragione. Se è vero che gli devono dare 250.000 euro. No, è vero, è un dato di fatto. Se lo Stato gli deve dei soldi, stai a sentire, se lo Stato gli deve dei soldi, lui, come hai tanti imprenditori, da un punto di vista anche no, è vero, fa bene a non pagare, fa bene a non pagare. Fanno benissimo. Lui dice che non pagherebbe comunque, però. Lui dice che comunque non pagherebbe. Ma quello è un principio generale. Cioè, sono contrario alle spese dello Stato, tipo Arabacis, quindi non voglio collaborare con questo. Cioè, secondo te bisogna iniziare a fare uno sciopero fiscale? Esattamente, perché non puoi dare dei soldi perché li buttano. Devo dare dei soldi perché li diano a Fiorito? Devo dare dei soldi perché li diano a Cotta? Non posso dare soldi perché paga. Ma questo è un dato di principio. Io propongo lo sciopero fiscale. Ma nel caso della fattispecie che ho citato, io ti devono dei pagato, soldi. Lo Stato me li deve dare, devono ancora fare il documento per riconoscere che me li devono dare, cosa allora che è in corso. Al che Befer ha detto la compensazione può essere fatta, ma occorre che il Ministero dica chi glieli deve dare. Siccome ancora tardano a fare questa cosa, certo io non do 250.000 euro nella tesa, mi fregano 500.000 euro. Sì, che a quel punto col cazzo che ti danno i soldi poi. Ma neanche dipinto. E chiunque non paghi danari rispetto a situazioni come queste, non solo fa benissimo, ma anche se non li paghi in assoluto, non partecipa a questa inaudita violenza. lei, ma ti pare che uno deve pagare i soldi perché facciano il palazzo della regione allora, della Lombardia, però sarebbe facile così, Vittorio, sarebbe uno vabbè, dice mi fa schifo quello che fa lo Stato, a me fa più schifo di quanto faccio a te, forse uguale, e che faccio, non pago? La soluzione è che tu concordi con lo Stato le cose che vuoi fare. Tanto lo Stato deve abbassare. Ma così è l'anarchia, in teoria. Ma devi spiegare che bisogna c'era di fare la rapace con soldi buttati, bisogna c'era di fare il palazzo della regione. Ma guarda il palazzo, tu fare non puoi fare. Tu devi andare a Firenze e vedere il palazzo di giustizia. Una delle cose più immonde e mafiose di tutti i tempi, pagata con soldi nostri. A Isernia hanno fatto l'auditorium con 55 milioni. No, ma io sono io su queste cose qui sono d'accordo con te, dopodiché ti ho detto la mia linea. Comunque Grasso fa costituire il Senato parte civile contro Berlusconi, sulla vicenda della compravendita del Senato. Quello è un diritto, Grasso si deve dimettere lui, perché questo fatidico schifoso del Greforte. Questo fatidico schifoso passò col centrodestra nel 2006 diventando presidente della commissione difesa. Non c'entra niente, non è stato comprato da Berlusconi. Quando un magistrato apre un'inchiesta. E Grasso perché ha fatto questa cosa? Perché Grasso fa questo? È un altro criminale anche lui. Cioè uno che non guarda le carte sono chiarissime. Lo Schifani trattò. Ho capito, ne parliamo domani, che non c'è tempo. Vittorio, a domani, l'abbraccio, ciao. Ti saluto, Cruciani. Guardi, Cruciani, io ho telefonato per dirle, io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio piena di contraddizioni, mandi a fanculo, dica le parolacce, perché è nel contrasto che c'è la vita, se no è come tutte le altre trasmissioni. E allora che facciamo? Radio 24, la passione, si sente.